tutti i presupposti positivi. Poi ringrazio Paolo, grande amante di Desio, no? Perché lui in realtà è un grande amante di Desio, oltre che conoscitore di Desio. Ringrazio la professoressa Montedoro che con noi ha collaborato, con Giovanni ha collaborato all'organizzazione di questo evento. Ringrazio voi studenti che siete qua, perché come dire, ripetiamo delle esperienze che nel mandato precedente per noi è stata molto positiva, quella della collaborazione con gli studenti dell'università, del Politecnico, in quelle che sono le nostre attività di pianificazione. Cerco di fare un flash brevissimo. Noi siamo all'inizio del secondo mandato, abbiamo avuto un primo mandato dove la città da un punto di vista urbanistico è stata completamente ripensata, dove sono state fatte anche delle scelte molto forti, dove sono state tolte milioni di metri quadri di terreno edificato, dove si è fatto un primo livello di approfondimento dal punto di vista della viabilità, quindi è stato fatto e sviluppato il PCTU. Adesso dobbiamo fare un livello ulteriore, che è quello che dobbiamo passare alla scala realizzativa, operativa, e quindi abbiamo bisogno su queste idee, che poi verranno illustrate in seguito, che si creino degli indirizzi di tipo realizzativo, esecutivo, perché il passaggio successivo per noi sarà quello di fare poi dei bandi per dare degli incarichi a dei professionisti, a dei gruppi di lavoro, quello che poi si metterà assieme per realizzare le progettazioni esecutive che riguardano il ridisegno proprio della nostra città, dove non è solamente un aspetto diciamo realizzare, ma è proprio di ripensare la città in funzione di quelli che sono gli obiettivi che ci diamo noi, di città vissuta dalle persone, città che non è una città dove le persone vengono solamente a vivere, nel senso ad abitarci, ma dove le persone vivono il luogo. No? È quello che in tutti questi anni abbiamo cercato di fare. Desio potenzialmente era uno dei luoghi che poteva correre il rischio di diventare un luogo dormitorio, cioè dove le persone poi non orbitano qui effettivamente nei tempi che non sono lavorativi. Questi anni credo che siamo riusciti a debellare questo rischio, no? E abbiamo creato tante possibilità di incontro, di iniziative e anche di attaccamento alla città. Dobbiamo continuare questo percorso e il ridisegno urbano per noi diventa un elemento di chiave importante. Quindi in questi giorni noi ci aspettiamo che arrivino veramente delle idee belle, importanti, che ci permettano poi di continuare in questo percorso. E chissà, magari qualcuno di voi, magari, visto che siete prossimi alla laurea, no? Sempre, magari potrebbe essere anche parte attiva, magari in un gruppo più ampio, per magari collaborare e partecipare a questo. Ecco, quindi io ringrazio a tutti i presenti, perché vedo anche comunque molti cittadini, quelli anche attivi, perché è una delle cose che è successa in questi anni, dove la cittadinanza si è confrontata spesso con l'amministrazione, vuole essere parte attiva. È importante per noi, siccome il tema riguarda il centro, ma riguarda anche i quartieri, perché bisogna comunque una città policentrica, non di un unico luogo dove la città vive, e quindi poi ci saranno anche questi momenti di confronto con loro, che certamente porteranno un contributo importante a quello che è un lavoro di studio, sostanzialmente di impostazione, per quelle che saranno poi per noi le basi per andare a realizzare concretamente l'amministrazione esecutiva, poi ovviamente reperendo le risorse progressivamente a costruire poi quello che viene messo sulla carta, sui progetti. Quindi grazie a tutti voi, ci diciamo tutti buon lavoro, c'è chi ne farà di più, chi ne farà di meno, ognuno per la sua parte. Grazie. Ci tenevo a dire, adesso prima di passare la parola a Paolo, allora ci tenevo a dire due cose sostanziali rispetto, diceva sindaco, ho proposto io questo workshop soprattutto perché mi sono ritrovato a volere la delega per l'attuazione del PGTU. L'attuazione del PGTU, che è sostanzialmente il piano generale del traffico urbano, che però vedevo non come occasione di semplice ridisegno viabilistico, no? Quindi gestione dei flussi, ma diventava anche l'occasione per ripensare lo spazio pubblico. Uno su tutti il tema della piazza. No? La piazza, cos'è oggi una piazza? Come la possiamo immaginare? Come, di quali elementi è costituita? La piazza storica è semplice, ormai è storica, quindi nei suoi elementi definita. Lo spazio pubblico contemporaneo attuale, quale deve essere, come deve essere costruito. Per cui intendevo un po' questa l'attuazione del PCT, un momento di ripensamento che avvezzo, ma è un tema ovviamente centrale. Poi voi avete già lavorato, in altri centri diciamo analoghi, per non parlare di Marrakesh piuttosto che di Bari, per non dimenticare i lungomari o mare. Ripensare lo spazio pubblico. Voi siete, avete atteso, come diceva Laura, fuori in questa, che cos'è una piazza, un piazzale, come mi diverto a chiamarlo. È vissuta quella piazza, come è vissuta? Manca qualcosa? Ecco, le domande che ci si poneva e che ponevo un po' in giunta, che ponevo alla maggioranza stessa, ecco, ai consiglieri che sono qui presenti, erano un po' in questa direzione qua. E come diceva anche il sindaco, perché l'interesse era un passaggio ulteriore. Le riflessioni che sono state fatte nelle amministrazioni precedenti, come accennava il sindaco, era un PGTU che aveva saputo rinunciare e ridimensionare in maniera considerevole il consumo di suolo, un PGT che faceva questo, un PGT che iniziava a tracciare dei ragionamenti su dei luoghi urbani, gli assi centrali, piuttosto che ragionare sul discorso del parco della cintura verde intorno ad Esio, però che poi prendeva corpo nel PGTU, quindi con una serie di ragionamenti sulla regionalizzazione o sulle le strade a precedenza pedonale piuttosto che una pedonalizzazione spinta. Ecco, tutto questo che scende a scendere più nel dettaglio per immaginarsi cosa vuol dire. Banalmente, cosa abbiamo bisogno per ripensare o riqualificare lo spazio pubblico? Di panchine, di alberi? Vi do queste domande, ma le rivolgo un po' a noi tutti, cioè la richiesta che facciamo a voi come studenti, come Politecnico, è quello di darci delle indicazioni, fornirci il momento di una riflessione che diventi una riflessione costruttiva, perché come diceva sempre il sindaco prima, noi dopo questa esperienza di laboratorio andremo a definire quello che chiamavamo il Politecnico delle sorte in un documento che costituisse una linea guida dei principi, delle riflessioni che vorremmo trasmettere agli studi professionisti che entro settembre incaricheremo per la progettazione preliminare definitiva di alcune aree che ho citato, che sono del centro, ma che sono anche altre aree che possono essere più problematiche. Qui ad Esio, nelle scorse amministrazioni, hanno saputo creare questa relazione forte costituendo dei comitati di quartiere. Quindi in questi quartieri, e l'invito è stato rivolto appunto ai comitati o anche ai semplici cittadini, per dire che questi quartieri siano dei luoghi, che possono essere anche dei luoghi urbani, di frequentazione, di una loro centralità urbana. Sono dei punti, magari in prossimità delle scuole, magari in prossimità dei piccoli esercizi commerciali, piuttosto che semplici bar o tabaccherie, che diventano dei luoghi di aggregazione, di minima aggregazione collettiva in questi quartieri. Ripensare quei quartieri, quei luoghi, ci è utile per dare una risposta anche alla cittadinanza. Questo è anche un invito, quindi non solo a, qui come si ragionava con la professoressa, non solo sul centro, ma anche su questi luoghi. Ho fatto adesso l'esempio di Piazza Concussani, ma c'è anche per esempio nel quartiere San Giorgio Piazza Giotto, che è un toponimo definita Piazza Giotto, ma una schienata di asfalto, o forse neanche di cemento, perché forse sotto ci sono i garage. Il toponimo ha detto piazza, ma ha qualcosa della piazza? Il comitato di quartiere quest'anno ha fatto la festa del quartiere, perché di fianco poi c'è un campo sportivo, che l'amministrazione, su proposta di alcuni abitanti, all'interno del bilancio partecipativo, che è stato votato dalla cittadinanza, ha posizionato dei container che sono degli spogliatoi, quindi cercando di andare a fornire degli elementi di possibile uso di questo spazio. Ecco, il ripensare anche questi spazi pubblici per noi è importante, definirli quali sono, o meglio, definire quali possono essere gli elementi, in questo caso fisici. Poi lo spazio pubblico non vive solamente di alberi, di panchine, ma anche di attività e di usi possibili. Quindi l'altro aspetto sarà poi questo, quale uso. Ecco, l'invito che vi faccio è un po' in questa direzione qua. Quello che ci aspettiamo un po' da questo lavoro è un po' queste risposte. Aiutarci a ripensare lo spazio pubblico, in questo caso di Dese, ma sapendo che ci riferiamo a un tema molto più molto importante che riguarda diversi centri dell'internet milanese, ovviamente. Per questo mi unisco ai ringraziamenti del sindaco, sia agli studenti sia ai cittadini che vorranno poi partecipare anche alle altre giornate, come poi spiegherà meglio nel dettaglio la professoressa, giornate di lavoro e di confronto. Grazie a tutti. Passo. Volete, decidete pure voi. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Conte e vi porto i saluti dell'Ordine degli Architetti, in particolare della Commissione Beni Culturali e Paesaggio, a cui a maggio credo di aver proposto questo momento, e è stato accettato con gioia dalla Commissione. Io sono un architetto con tanti colleghi che vedo qui in sala e presto volontariamente il mio contributo in Commissione, che ce ne sono tanti. Ci sarà il responsabile della Commissione 4 lunedì, quando ci sarà la giornata anche con i crediti formativi degli architetti, e vi porto saluti sempre dalla Mariana, che è vicepresidente dell'Ordine, che è proprio responsabile della Commissione. Io sono definito amante di Dese, io in effetti vivo a Dese da quando sono nato e la vivo un po' come cittadino attivo, nel senso che il PGT a cui si faceva riferimento prima è un investimento che io ritengo appunto l'investimento sulla città, con un'attenzione all'esistente, al clima politico che c'è, politico ed economico che c'è attualmente sull'urbanistica, sul governo dei territori, e con un'attenzione anche a quello che è il suolo, un investimento sul suolo che bisogna salvaguardare, 2,5 di metri quadri, che non è poco, anzi direi che è molto, moltissimo, e queste aree libere sono state inserite all'interno del parco del Gugliotto, che è una scommessa sovracomunale che coinvolge più comuni. Ecco, io quando penso a una città, penso ai suoi abitanti, non tanto alle architetture, lo dico un po' all'architetto, io sono anche insegnante, perché la commissione di cui faccio parte, per il culturale e il paesaggio, comprende le due parole, una della cultura e l'altra del paesaggio, che devono andare, secondo me, di pari passo. Una città senza abitanti è una città archeologica. Se noi andiamo a vedere questi Ercolani, Pompei, sono città che sono formate 79 d.C., non c'è abitato nessuno, e queste sono città archeologiche. Invece le città sono fatte dalle persone. E se pensiamo alla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, la definizione che dà è frutto di una elaborazione, direi centenaria, che è stata fatta a livello teorico nella nostra Repubblica, che definisce il paesaggio come parte del territorio così come è percepito dagli abitanti. Spesso l'architetto, quando si trova fare progettazione, è una persona sola, una figura professionale che solamente si trova a fare fronte con tanti stimoli, perché parliamo di un edificio, di un committente, allora è la porta più unita. Quando parliamo di progetto sulla città, la cosa diventa molto più complessa. Spesso si è anche molto criticati su alcune scelte che vengono fatte sulla città. Quindi questo workshop che comprende, coinvolge, invita le associazione locale a partecipare, è un'occasione che io vi invito a sfruttare. Ecco, mi aggiungo se sbaglio, ma con i tempi, almeno io ho finito nel 2007, dopo il dottorato, non credo in segno ancora di captare le persone all'interno di un processo di progettazione. Per cui queste sono occasioni d'oro dove il progettista può farsi carico e di raccogliere delle notizie molto interessanti. Perché una città è fatta non solo di persone, ma anche di appuntamenti. Ci sono luoghi che magari rimangono sguarniti per 10 ore e poi in quella mezz'ora si riempiono di persone, di macchine, di eventi. E poi la città è frutto di un uso secolare che Carandini, per esempio il grande archeologo, definisce il paesaggio fossile. È un paesaggio che si rinnova di continuo, cioè qualsiasi nuovo inserimento che noi facciamo nella città è un lavoro da sarto. Non partiamo mai da una tabula rasa, come diceva il Museo, partiamo da un palinsesto di architetture, di relazioni, di luoghi che hanno aggiunto un bilancio, un equilibrio. Gli architetti spesso sono chiamati a volte a sconvolgere, a volte a capire, preliminarmente a capire, e poi dopo a intervenire. Spesso le città sono anche da riscoprire, perché non tutti, vediamo per scontato che magari chi abita all'interno della città conosca anche il luogo, dove in realtà non è sempre così. Un po' perché spesso le persone si muovono, quindi le città assumono nuove persone, nuovi cittadini che magari vivono la città in determinato modo. Credo che tu anche il video, appunto, ma per una mia passione, semplicemente. Però ci sono tanti cittadini inglesi che spesso non conoscono la propria città. Si dà per scontato anche queste relazioni. Quindi anche il conoscere come viene vissuto il vissuto di una persona è sicuramente un elemento molto importante all'interno della fase di progettazione. Altra cosa che diceva un grande geografo che era Eugenio Turri era che spesso l'architetto si mette in relazione con tante altre figure professionali, e non solo quelle tecniche. Lui addirittura è stato per anni consulente di Regione Lombardia per fare il territorio regionale, è stato un grande geografo. E addirittura lui sognava, perché questo era anche un sogno, per l'interno delle commissioni urbanistiche che sono coinvolti, storici locali, antropologi, cioè persone di altre aree scientifiche che possono portare, ci possono spostare la visione, perché spesso l'architetto è una visione molto, giustamente, molto progettuale, molto attiva, molto, a volte anche violenta sulle città. E invece questi aspetti, di relazione che spesso mancano nella progettazione devono essere tenuti in considerazione. Si dice, insomma, c'è un detto che per esempio, sulla piazza del paese spesso si interviene una volta di secolo. Quando si studia un po' storia della scelta del territorio, quella piazza subisce un lavoro in realtà che non tutte le volte. Si è parlato poi di città policentrica, e questo è vero. Ho parlato prima di sarto, di tagli e cuci, perché spesso ci sono delle relazioni da riscoprire tra il centro fisico, il centro storico, e poi anche questo, il centro storico, diciamo che c'è un centro geografico che è quello storico, ma ci sono tanti centri periferici che non hanno niente di umiliare da vista storica. Sono centri storici, anche per esempio la Cascina San Giorgio, che è una parte geograficamente periferica rispetto al centro, ma storicamente importante tanto quanto il centro storico, geografico di Belgio. Ho citato San Giorgio, ma potrei citare anche la Cascina, la Cascina San Giuseppe, la Cascina San Giorgio, Bolagnos, Santa Caterina, poi sono io la mente di questa documentaria. Oppure tanti quartieri che sono nati a fronte delle migrazioni degli anni 50, che hanno delle microcomunità che funzionano molto bene, sono delle città nelle città. Ecco, io credo che questi siano aspetti che devono essere valorizzati all'interno della progettazione, e sono aspetti che non sono molto difficili da trattare. Per cui invito gli studenti che sono, io sono l'ultimo anno, e quando si progetta, sia professionisti, sempre il tempo che corre, che sempre impiccati nel dover fare le cose, invece questo è un tempo rilassato per cercare di capire anche queste relazioni che sono molto importanti. Vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio l'amministrazione che ci ospita e che ci ha offerto questa ulteriore sfida e occasione per metterci alla prova progettualmente. Due parole sulle persone, intanto chi sono, mi presento, Laura Montedoro, ho la ventura di insegnare il laboratorio di disegno urbano e architettura del paesaggio, sono membro della commissione per il paesaggio del Comune di Milano, quindi molto sensibile ad alcuni temi che poneva il collega, e in generale direi che potrei sintetizzare dicendo che la città è la mia passione. Città in qualunque dimensione, in qualunque latitudine, sono molto curiosa e rispetto a questo ritengo che l'armatura dello spazio pubblico sia fondamentale e irrinunciabile per la vita di una città. Quindi il fatto di aver colto questa occasione di svolgere un workshop completamente dedicato a questo tema mi sembra quanto mai interessante. Naturalmente sappiamo che su Besio c'è stata un'attività progettuale importante negli ultimi anni, anche a una scala superiore, appunto è stato già ricordato il piano di governo del territorio, tra l'altro coordinato da un collega stimatissimo, Pietro Lanzani, che spero verrà a trovarci lunedì mattina e a spiegarci anche in modo ravvicinato il suo punto di vista, e dunque da lì partiremo evidentemente. Cioè, il primo sforzo sarà quello di possedere la documentazione tecnica e partire da quanto è già stato fatto, come sempre, no? Bisogna sempre partire da quello che c'è, non è mai un ricominciamento, questo è fondamentale. Prima di passare alla descrizione più dettagliata del workshop, però volevo anche dire chi sono i partecipanti a questo workshop, che sono 19 laureandi del laboratorio della scuola di architettura, ingegneria urbanistica e ingegneria delle costruzioni del Politecnico di Milano. Mi sono confusa perché abbiamo cambiato nome da poco, anzi abbiamo cambiato tre nomi, quindi era architettura civile, poi architettura e basta, insomma, quindi il Politecnico ha fatto un riassetto abbastanza radicale delle sue strutture didattiche di ricerca. E sono laureati della specialistica, quindi sono ragazzi maturi che hanno già fatto diverse esperienze in questo ambito, in particolare la gran parte di loro con me ha già seguito appunto sia questa esperienza annuale per il recupero di tutta la fascia costiera di Bari in dialogo con l'amministrazione, e l'anno successivo invece si è dedicata a Marrakech. Quindi due contesti completamente diversi, torniamo a casa, torniamo molto vicino a Milano e anche con un'altra scala di città. Io ritengo che questo sia un elemento molto interessante proprio per mettere a verifica gli strumenti che abbiamo affinato negli anni precedenti. Per quello che invece mi riguarda le attività precedenti, come prima ricordava l'assessore, noi abbiamo già svolto esperienze molto simili di corso intensivi sia a Baranzate che a Carano Pertusella, e devo dire che entrambe le esperienze sono state molto ricche e molto felici. Su questo torno anche sul tema della partecipazione, che è una parola difficilissima da utilizzare. Evidentemente il corso non ha la finalità della partecipazione. Partecipazione in senso stretto, come pratica, implica altri tempi e altri spazi, però è un workshop di tecnici aperto alla cittadinanza, e dunque dall'interazione tra la cittadinanza, che sia costituita in associazione, che sia singolo cittadino, e gli studenti, nascono delle suggestioni e delle, anche proprio delle visioni della città che altrimenti si darebbero. Anche questo sottolinea anche l'importanza di lavorare nella sede, no? Noi abbiamo un po' cercato di bilanciare il programma delle attività del workshop tra l'aula del Politecnico, che tra l'altro ha potuto dire l'aula S19, quindi chiunque voglia venirci a trovare può venire al padiglione sud, e invece la sala Giardini, è proprio perché lavorare nel luogo che si deve progettare è importantissimo per il contatto con le comunità locali, ma anche per l'esperienza dello spazio e la frequentazione dei luoghi sempre vicini, sempre a portata di mano. Quanto ai contenuti del workshop, appunto, come dicevo prima, il focus è quello dell'armatura dello spazio pubblico, degli spazi aperti, ma evidentemente questo non può essere fatto al di fuori di una visione più complessiva. Quindi l'invito per gli studenti è quello di procedere in modo abbastanza analogo a quanto abbiamo già fatto, cioè di avere una visione, un'interpretazione proprio strategica del complesso del comune, e all'interno di questa visione poi avere degli approfondimenti come delle sonde progettuali su alcuni spazi specifici. Quanto alle attività, molto brevemente vi racconto quello che c'è anche sulla locandina, ma vale la pena richiamarlo. Domani saremo qui tutto il giorno, alla mattina avvieremo il lavoro, quindi sarà una mattinata operativa di divisione dei gruppi, consultazione dei materiali, distribuzione della cartografia, eccetera. Mentre il pomeriggio sarà, se concludiamo prima anche la parte finale della mattina, sarà dedicato ai sopralluoghi, cioè andremo in giro per la città e speriamo anche di intercettare già in questo sopralluogo lo scambio con informale, non strutturato, con alcuni cittadini. Ad esempio, quando sono venuta a luglio, la prima volta che eravamo a passeggiare con l'assessore e Paolo Conte, nella piazza principale della Diego ci ha fermato un anziano signore che ci ha tenuto a raccontare una serie di vicende relative alla storia della città con molta passione, e si capiva che aveva proprio voglia di parlare. Se avessimo avuto più tempo probabilmente avrebbe avuto altre cose da raccontare. Ecco, l'idea quindi è che il sopralluogo sia fatto di osservazione dei luoghi, dello stato dei luoghi, quindi attraverso la fotografia, lo schizzo e quanto ci servirà, ma anche interazione con le persone e osservazione di come le persone stanno nello spazio, no? Perché questa tecnica dell'osservazione, che non è un'invenzione nostra, ma una tradizione negli studi urbani molto profonda, già dagli anni 60, è fondamentale osservare come le persone usano lo spazio. Naturalmente questo rende molto utile la ripetizione del sopralluogo anche in giorni diversi della settimana in fasce orarie diverse. Il fatto di lavorare in fischero ci consentirà, una volta individuato le aree di intervento, di ripetere questa operazione di osservazione. Domenica saremo qui al mattino a cominciare a restituire quanto abbiamo visto nei sopralluoghi e anche a costruire delle mappature condivise. Mentre il pomeriggio abbiamo immaginato un momento più strutturato di incontro con la cittadinanza. Quindi qui è molto, vi chiedo di passare parola, oltre a invitare tutti coloro che sono venuti oggi e che ringrazio, di passare parola a chi fosse interessato. La domenica pomeriggio noi saremo qui in attesa di incontrare cittadini, amministratori, tecnici, chiunque, insomma, è completamente aperto, voglia venire con noi a ragionare su quello che abbiamo cominciato a vedere. Lunedì è la giornata, è stato già ricordato, invece sempre qui, più tecnica, più strutturata. La mattina appunto probabilmente verrà il professor Arturo Lanzani a parlarci del PGT, e poi sono stati invitati degli altri professionisti locali che hanno appunto un'esperienza molto forte sul campo. E il pomeriggio invece è dedicato a un seminario tecnico dove saranno presenti molti invitati, alcuni porteranno un punto di vista di tipo più interpretativo culturale, altri di carattere strettamente tecnico, tra cui il nostro direttore di dipartimento, il professor Gabriele Paschi. L'elenco delle persone che non ve lo leggo, l'ho trovato, sono più interessanti temi magari, cioè ad esempio la questione dell'accessibilità anche per i disabili o comunque per tutte le categorie dei cittadini dello spazio pubblico, che è una cosa che non siamo abituatissimi a mettere attenzione nella parte progettuale, o il comfort ambientale, cioè capire anche alla luce di questa estate infinita che abbiamo alle spalle, questo caldo insopportabile, quanto possa essere prezioso all'interno di uno spazio pubblico disporre di una zona d'ombra o avere un controllo dei venti nel posizionamento dell'istituto. Cioè, ci sono una serie di elementi che attengono proprio al comfort ambientale, o non so quanto alcune pavimentazioni siano più riflettenti di altre, eccetera eccetera. Ovviamente non bisogna difendersi solo dal caldo, anche dal freddo, quindi la sfida è doppia. Insomma, avremo una specialista che ci verrà a parlare di questo, e così via. Ci sarà l'intervento sul commercio. Anche questo è un incontro particolarmente pensato per gli studenti del workshop e per i professionisti che avranno diritto al riconoscimento dei crediti, ma è aperto a chiunque voglia intervenire. Poi avremo alcuni giorni di lavoro invece nostro intensivo al Politecnico, in questa aula S19, come dicevo prima, è in cui chiunque comunque può affacciarsi o intervenire. Ecco, qui c'è un piccolo cambio nel programma, io lo preannuncio per tutti, poi ovviamente diffonderemo la cosa anche tramite i canali opportuni. Le revisioni intermedie, che sono un momento importante perché sono il momento in cui i ragazzi sottopongono alla valutazione di cittadini e amministratori lo stato di avanzamento del lavoro. E quindi è un momento in cui l'interazione può ancora effettivamente correggere, modificare o riorientare l'azione progettuale. Dicevo, queste revisioni intermedie che originariamente avevamo immaginato il giovedì 7 settembre, le sposteremo invece a venerdì 8 settembre, al pomeriggio, dalle 14.30 in avanti. Questo per avere la possibilità di maturare un prodotto intermedio più definito, quindi è stata proprio una valutazione legata al ritmo del lavoro. Ci rivedremo invece qui a Desio, oltre venerdì 8 al pomeriggio, nella giornata di chiusura, mercoledì 13, e sarà tutta una giornata dedicata alla chiusura del workshop, con al mattino la mostra dei lavori che presumibilmente faremo nella prima parte, nell'anticamera, diciamo, della sala Pertini in cui ci troviamo, quindi i lavori dei ragazzi saranno in mostra e resteranno forse anche in mostra, se possibile, per chi vuole venire per qualche giorno, e al pomeriggio invece ci saranno con una discussione pubblica dei lavori anche qui con esperti, e al pomeriggio invece ci saranno i lavori di una giuria che valuterà quali sono i prodotti più interessanti, diciamo, ritenuti migliori. Ecco, ultima cosa che volevo dirvi, anzi due cose ancora, sono, ma velocissima, giuro. Una è i prodotti attesi, che tipo di prodotto ci aspettiamo? Come dicevo prima, ci aspettiamo che questi progetti che noi chiamiamo esplorativi, perché non sono dei progetti immediatamente traducibili in azione progettuale, sarebbe peraltro anche il proprio rispetto alla richiesta che si fa agli studenti, che sono invece chiamati a portare qui la loro freschezza, la loro... il loro sguardo anche un po' sognatore in alcuni momenti, ma saranno progetti che cercheranno di mettere in evidenza alcune potenzialità. Allora io faccio sempre questo invito tra il realismo, il duro realismo della professione e l'utopia del sogno irrealizzabile, invito gli studenti a stare su un terreno di temperata credibilità, cioè devono stare nel mondo, ma devono anche forse gettare il cuore oltre l'ostacolo e immaginare qualcosa che forse non è immediatamente disponibile. Quindi delle visioni e delle soluzioni decise. L'ultima cosa riguarda il documento delle linee guida. Allora, il documento delle linee guida, che evidentemente non interesserà direttamente gli studenti, ma il team del Politecnico, anzi approfitto a presentare anche gli altri tutor, non ci sono tutti e tre. Sono l'architetto Fabio Lepratto, l'architetto Riccardo Mazzoleni e l'architetto Alexa Croglia. E, dicevo, il lavoro di questo gruppo sarà di cercare di produrre queste linee guida. Allora, anche questo è piuttosto sfidante, perché le linee guida sono un'indicazione intermedia tra degli intenti generali e un progetto. Non è una misura facile, ci sono diverse esperienze che sono state fatte, si ricerca di questa misura di vincolo, di prefigurazione senza conclusione, per le quali noi trarremo sicuramente alcune valutazioni dai lavori dei ragazzi, ma non saranno assolutamente la trasposizione. Cioè, i lavori dei ragazzi che saranno comparabili per loro natura, noi abbiamo immaginato una grafica comune, un layout comune, proprio per rendere i lavori più comparabili possibili, ci serviranno a testare le situazioni e saremo poi noi, in accordo, ovviamente, in dialogo con l'amministrazione, a valutare quali sono gli elementi più preziosi capacità per passare all'azione, diciamo. Bene, grazie della pazienza e spero di vedervi numerosi. Grazie. Sì, devo dire in effetti, professoressa, che poi spinto dal sindaco, che come diceva all'inizio noi abbiamo necessità di, dopo aver pianificato, abbiamo necessità di vedere. Allora, sicuramente la spinta nostra ovviamente di essere quella. Però mi piace, come dire, questo punto di equilibrio, la sfida sì. Mi sono reso conto quando venivo a chiederti le cose, non che non me le devo, però ovviamente aspettava l'altro dire. Però sicuramente la sfida non è semplice, non siete chiamati a poi tra il lavoro degli studenti e il vostro, effettivamente, poi riuscire a trovare quel punto di equilibrio tra il dire e il vincolare, non ha raggiunto l'altro aspetto, perché ovviamente poi questo nella nostra intenzione è quello di essere condiviso, come giustamente diceva, con l'amministrazione, perché poi questo per noi diventa un documento, non sarà l'unico documento ovviamente, ma è un documento sul quale abbiamo invitato come amministrazione, che dicevamo prima, i consiglieri, il consiglio comunale, invoglieremo il consiglio comunale a prendere visione di questo documento, perché lì così sarà un po' una trasposizione ulteriore di una visione di città. Per cui non posso che ringraziarvi e ringraziarti, dando il tu, della sfida accettata, non è sicuramente non è semplice. Perché vabbè, per ringraziare veramente la scuola, diciamo, dalla quale proviene il vostro interesse specifico agli studenti. Niente, mi sembra che le cose siano state dette. Direi se ci sono delle domande, dei dubbi, delle richieste di chiarimento, questo è il momento magari per tirarle fuori. È un momento conviviale, per cui si può fare anche polemica, sì, quello anche polemica. No, ma era per dire conviviale nel senso che, ma siccome ultimamente è morto, non ci sono più polemiche, allora era per dire non morto. Prego, se avete domande, ben preso. Naturalmente anche gli studenti. Naturalmente. Ci sono? Sì. Grazie. Mi ero segnato alcune cose. No, più che altro ci sono alcuni dubbi di tipo processuale. Nel senso, uno fra tanti è la gestione della comunicazione, se ci deve essere un'apertura comunque di questo workshop con la cittadinanza e ci devono essere degli scambi, quindi c'è una sorta di retroazione tra le suggestioni dei cittadini e chi poi dopo deve elaborare qualcosa, studenti, tutor. Il fatto di forzare una collaborazione, comunque una comunicazione solamente dal vivo, tende a far mancare il supporto potenziale, l'input informativo potenziale di tutta la cittadinanza, di tutto il resto della cittadinanza, perché ovviamente la sala Pertini è grande, ma non riesce a contenere e anche il canale informativo gestito, creato dalla sala Pertini, non può veicolare la quantità di informazioni che potenzialmente potrebbe essere iniettata all'interno di questo processo. Quindi, qui è una domanda ma anche un suggerimento, il fatto di creare un canale di comunicazione, io lo identifico come all'interno dei canali digitali, in cui comunicare lo stato di avanzamento, per esempio anche... Come anche il fatto di raccogliere, appunto, non so se quindi verrà usata anche per raccogliere queste informazioni da parte dei cittadini, le suggestioni dei cittadini, e in che formato. Appunto, adesso rispetto il lavoro di tutti quanti e sto solamente sollevando il dubbio di un cittadino qualunque. E, a parte questo, sto vedendo un attimo le varie considerazioni che avevo fatto. Le aspettative, quindi, ma ho già ricevuto delle risposte durante la vostra esposizione di oggi. Suppongo quindi che le aspettative generate non siano né di un processo completamente partecipativo da parte della cittadinanza, perché, come ha detto anche lei, tende a richiedere delle altre tempistiche e delle altre modalità. Al tempo stesso il prodotto finale non è un qualcosa che viene direttamente utilizzato all'interno del PGTU. Un altro dubbio da cui sono partito è come si possono sposare questo documento delle linee guida con il lavoro presente del passato del PGTU, presente quindi lo stato attuale, come anche il lavoro del centro studi PIM, che quest'anno dovrebbe produrre delle linee guida parametriche che si basano quindi su delle indicazioni di tipo economico anche, che poi dovrebbero essere utilizzate, se non erro, al termine di quest'anno da parte dell'amministrazione per comporre un piano esecutivo concreto. Se non sto dicendo delle inesattezze, ovviamente. E collegato a questo, mi è venuto in mente durante l'esposizione dei vostri contributi, è sensato inserire all'interno di questo workshop per i ragazzi, per non so come chiamarli con un tono comunque adeguato, gli architetti, con i laureandi. Sono anche con queste squisite persone, anche dei vincoli di tipo monetario o comunque, non so poi dopo se verranno inseriti delle riflessioni di tipo monetario per quindi creare delle linee guida che possano essere compatibili in parte con il lavoro del centro studi PIM della parametrizzazione. Grossolanamente, un ultimo consiglio è il fatto di appunto comunicare con largo anticipo, perché è stata comunicata questo workshop essenzialmente all'inizio di agosto, e agosto si sa la città è praticamente vuota anche a livello comunicativo, sarebbe stato sensato forse comunicarlo con largo anticipo in modo tale da convogliare maggiormente l'interesse delle persone, unito poi dopo al fatto di comunicare in anticipo anche la presenza di canali digitali in modo tale da preparare anche preparare i cittadini a un tipo di input e un tipo di consumo di consumazione, comunque di fruizione dei risultati e degli output di questo workshop tramite i canali preposti. Grazie. Prima di rispondere, se ci sono altre domande. Sono già un bel no, se ci sono altre domande, se no iniziamo a rispondere a queste, intanto che rispondo io a due o tre più interni, diciamo, rispetto al discorso del PIM. Diciamo che sono piani differenti. Dicevamo prima che il PGTU si occupa più, diciamo, dell'aspetto viabilistico, quindi di gestione dei flussi, quindi dell'aspetto della mobilità. Quello che si vuole qua è portare la riflessione anche su altro. Cioè, il PGT gestisce i flussi dei veicoli, che comunque costruisce le opportunità riguardante la mobilità. No? Però non è che dà indicazioni, ed è innanzitutto uno strumento di pianificazione. Quindi il PGT è uno strumento di pianificazione, il PGTU è uno strumento di pianificazione per quanto riguarda la mobilità. Non è poi completamente corretto che il PIM produrrà delle linee guida parametriche. Quello che è stato chiesto al PIM è sulla base dell'atto di pianificazione del PGTU, di costruire, diciamo, una griglia di priorità realizzative in relazione a degli obiettivi. O meglio, per spiegarmi meglio, se io voglio arrivare, facendo un esempio concreto, se io voglio arrivare a una costituzione, mettiamo il caso dell'isola ambientale come previsto dal PGTU del centro, o di una parte di quell'isola ambientale, che tipo di interventi viabilistici, quindi di sensi unici, devo mettere in atto, cioè devo realizzare per poter arrivare a, per esempio, alla costruzione dell'isola ambientale, piuttosto che alla costituzione facendo un esempio concreto, di via Lampugnani a precedenza pedonale. Siccome uno dei temi del TG2 è quello di evitare il traffico di attraversamento improprio, quindi per esempio che attraversa via Lampugnani ma non ha origine e destinazione in via Lampugnani o nelle vie limitrofe, devo fare una serie di interventi. Bene, quali sono questi interventi? E fornire da un punto di vista, diciamo, più interno all'attività viabilistica, una serie di costi, di possibili costi. L'idea è un po' questa. Poi la cosa si sta articolando in maniera anche diversa, proprio perché le attività di programmazione poi interne all'amministrazione hanno reso possibile fare degli altri passi. Per esempio, quando si è discusso, poi diventa molto tecnica la questione, no? Perché tutto parte dal bilancio di previsione, dagli obiettivi del piano esecutivo di gestione, per cui la macchina dell'amministrazione si è messa in moto in un certo modo. All'interno del periodo dell'anno sono stati rivisti, perché si sono aperte le opportunità di bilancio, e quindi si è arrivati poi alla possibilità di affidare, come si diceva all'inizio, alcune progettazioni preliminari. Allora, probabilmente l'aspetto di quantificazione di costi parametrici, che prima era richiesto al PIM per poter andare a costruire una griglia, in parte viene meno, perché ci sarà questa attività di progettazione che ci consentirà di avere questi costi più specifici e quindi meno labili da un punto di vista di correttezza del dato. Però con questo non viene meno rispetto a tutto il resto. Per cui l'attività che mettiamo in atto con il workshop è quindi ragionare sullo spazio pubblico, le piazze e le strade, da un altro punto di vista, più dall'uso, più dalla qualità, che non dalla funzionalità della gestione. Adesso lo sto esprimendo in termini abbastanza semplicistici, vorrei dire, produttivi. Però un po' questo, abbinare questa riflessione un tipo di riflessione più ampia, quindi sull'uso dello spazio, su una possibile altri usi, su una possibile riqualificazione che però va al di là della gestione dei flussi di traffico. C'è comunque una parziale sovrapposizione? Sì, no, c'è un'assoluta sovrapposizione. Cioè, loro partiranno alle volte dal PGT, dal PGTU, perché fornirà una serie di informazioni utili. Il fatto che via Lampugnani si presuppone come asse a precedenza pedonale, ma così come l'asse di via Garibaldi e Corso Italia, che è l'asse commerciale storico di Desio, è figlio del TGT e viene accolto e tradotto all'interno del TGTU come atto di pianificazione, e sulla base di quegli obiettivi viene creata una gestione dei flussi di traffico, per evitare che appunto il traffico vada a soffocare, diciamo, un'eventuale pedonalizzazione, a rendere più difficile un'eventuale pedonalizzazione, per esempio di Corso Italia, piuttosto che di Antignani. Quindi non sono in contrapposizione, ma sono in stratificazione. Era il dubbio, infatti. Era no, dubbio. Assolutamente. Infatti all'origine questo programma che voi vedete qua è stato fatto, rifatto, e poi e qui rispondo al discorso anche della tempistica, sicuramente ci sono stati dei problemi, ma problemi anche perché il workshop all'origine era pensato con maggiore disponibilità di tempo, poi sono entrate queste necessità, cioè queste possibilità, queste opportunità che andavano sfruttate, e quindi hanno accelerato un attimo i tempi, ma nello stesso tempo il Politecnico, allora che abbiamo trovato la quadra rispetto a delle situazioni, ci hanno portato più lungo. Le opportunità che nascevano all'interno del bilancio ci costringono a chiudere delle cose, quindi queste progettazioni successive preliminari entro la fine dell'anno, e quindi questo ha dovuto comprimerci. Costretto a comprimere, l'unica finestra che abbiamo trovato è stata questa. In origine, per una serie di ragioni, in questa sessione di apertura ci sarebbe dovuto essere il professor Manzani, che fortunatamente la professoressa è riuscita a recuperare per lunedì, ma ci doveva essere anche l'ingegner Pazzizza del PIM, proprio per fornire quelle indicazioni di principio, di obiettivi e di strategie, che sono alla base del lavoro che verrà fatto. Ecco, ma non è assolutamente da vedere in contrapposizione quanto in stratificazione. Poi sicuramente i tempi sono compressi, siamo consapevoli che aveva bisogno probabilmente di altre date, ma non potremo fare nulla se non perdere l'opportunità. Rischiamo di perdere l'opportunità, la scelta è stata quella pur di stare complessi di sfruttare questa opportunità. Grazie. Ti posso dire una cosa? Allora, qual è la fine di questo percorso che inizia oggi? Perché con questo percorso noi iniziamo, se permettete, una fase esecutiva di quello che è stato tutto il nostro percorso amministrativo, cioè la fase pianificatoria l'abbiamo fatta nel precedente mandato, adesso noi abbiamo la necessità di realizzare, quindi è importante capire come una pubblica amministrazione, almeno avere un minimo di idea di come una pubblica amministrazione può arrivare a realizzare qualcosa, un'opera. Allora, le nuove norme sugli appalti, contrariamente al passato, prevedono che si possa andare ad appaltare un'opera se è stato fatto un progetto esecutivo. Quindi questo per noi è il primo step, diciamo, progettuale per definire quelli che saranno i principi che, insieme ad altre attività che si stanno svolgendo parallelamente, saranno oggetto poi di una gara per dare degli incarichi di tipo progettuale, non di pianificazione, ma di tipo progettuale, per fare la progettazione proprio di come i luoghi dovranno essere poi trasformati. Progettazione che poi dovrà arrivare con step successivi alla progettazione esecutiva che inevitabilmente dovrà essere fatta per lotti, perché non è che l'amministrazione, non so, avrà 10 milioni di euro di disponibilità economiche per realizzare tutto quello che verrà progettato. È auspicabile e prospettabile, salvo entrate straordinarie, che noi si possa mettere delle cifre intorno ad alcune centinaia di migliaia di euro all'anno per realizzare qualcosa. Poi un intervento in un quartiere, un intervento sul centro, questo sarà oggetto di quel tema delle priorità che diceva Giovanni. Però per non buttare via il tempo e soprattutto le risorse è fondamentale avere una visione organica di come la città deve trasformarsi. Quindi noi, da una visione organica pianificatoria, adesso dobbiamo abbassarci di uno scalino per avere una visione organica di quelle che sono le linee di indirizzo realizzative, perché da queste linee di indirizzo poi partiranno incarichi di tipo progettazione preliminare definitiva, poi ci sarà la progettazione esecutiva e a quel punto noi avremo tutti gli elementi che, in base alle risorse economiche che l'amministrazione negli anni riuscirà a recuperare, per poter appaltare degli incarichi, dei lavori realizzativi. Quindi noi ci stiamo passando di un livello dal punto di vista pianificatorio, partiamo con quello realizzativo e lo facciamo sfruttando tutte le cose che nel frattempo sono state realizzate, quelle che sono state fatte nel passaggio precedente, che si stanno realizzando su altri livelli e che poi mettiamo assieme. Però il tema è questo: non si può andare a realizzare un'opera se prima non c'è una progettazione esecutiva. Quindi, siccome noi, giustamente diceva Giovanni, abbiamo avuto delle possibilità dal punto di vista economico, opportunità per tutta una serie di vicende che dovrei parlare di bilancio, non è questo il caso, che però dobbiamo utilizzare entro la fine dell'anno, ecco che allora c'è stata questa accelerata, perché se no avremmo perso l'opportunità. E quindi, siccome questo è uno step obbligato, nel percorso di realizzazione abbiamo deciso di concentrarlo per raggiungere un duplice obiettivo, quello di avere un prodotto finito e quello di poterlo realizzare, perché abbiamo avuto un'opportunità che avevamo quest'anno e che l'anno prossimo non sapevamo se avremmo avuto ancora o meno. Questo è un po' l'orizzonte, ecco. Perché comunque poi le amministrazioni devono essere concrete, cioè non possiamo stare sempre a livello di progettazione, dobbiamo realizzare, e da questo punto di vista la realizzazione di un'opera pubblica prevede tutta una serie di step che sono questi. Qui siamo all'inizio, il primo, di quello che sarà poi la fase realizzativa. Ci teniamo a dirlo perché magari non tutti hanno presente questo. Sarò brevissima perché le repliche mi sembra siano state già esaustive. No, sul tema dei tempi, ribadisco quanto ha già richiamato l'assessore, è stato piuttosto complesso trovare questa finestra, perché abbiamo anche ipotizzato inizialmente di anticipare prima dell'estate, a luglio, il workshop, ma per gli studenti è veramente impossibile partecipare a luglio perché sono impegnatissimi nelle sessioni d'esame. Quindi è difficile fare il workshop senza gli studenti. oltre queste date sarebbe stato troppo avanti per l'amministrazione. Quindi concordo sul fatto che iniziare il primo di settembre con le comunicazioni magari nei primi di agosto non è, diciamo, efficacissimo sul piano della comunicazione, ma cerchiamo di recuperare lavorando in questi giorni e facendo più tantan possibile, dando visibilità a questa esperienza per recuperare la comunicazione con la cittadinanza. E, ecco, questo è quello che riguarda i tempi. Dal punto di vista invece del senso della partecipazione, dipende un po' dagli obiettivi che ci si dà rispetto al workshop. Come spiegavo prima, il workshop non nasce con l'obiettivo della partecipazione, ma nasce con l'obiettivo di un'interazione produttiva, da chiamare così, un'interazione ricca, potenziale, no? Di cui poi prima non si possono prevedere gli esiti. E rispetto a questo abbiamo apparecchiato le cose perché possa essere possibile, sia con i momenti istituzionali, sia appunto con l'idea proprio di stare qui. Abbiamo aperto una pagina Facebook che è il diario del workshop, cioè proprio l'idea di documentarlo e renderlo via via disponibile online. Diverso è il tema della raccolta, per via informatica di formazione delle terze suggestioni. Noi veniamo da un'esperienza fatta lo scorso anno di partecipazione riguardo a Fabio Letratto, perché l'abbiamo condivisa, sulla trasformazione di una caserma a Milano, della caserma Mameli, che aveva quell'obiettivo della partecipazione, avevamo una mailing list infinita, avevamo una persona dedicata 24 ore su 24 a rispondere alle mail, aveva, cioè era un altro lavoro, era un lavoro di altro tipo, no? Allora sarebbe anche dire improprio offrirsi come sportello aperto di ascolto quando non abbiamo in questo momento né gli strumenti e i mezzi, ma forse neanche l'obiettivo, perché in questo momento forse quel tipo di partecipazione non è centrale in questa fase, anche rispetto alla tempistica che è stata già richiamata. Però questa poi è una valutazione di altro tipo che attiene alla politica, però di fatto per la nostra missione qui appunto si immagina più un'interazione. Io, naturalmente lei conosce i social meglio di me, se sotto un post si vuole aggiungere un commento, un'affermazione, noi la leggiamo, la raccogliamo, gli studenti la vedono, ci ragionano, però non nella forma di accolgo, archivio e poi restituisco e sintetizzo, che è proprio un lavoro di altra natura. Però noi speriamo di fare bene per le condizioni date. Grazie. A chiarezza fatto venire in mente la professoressa, perché all'origine qui a Vesio c'è stato un forte sviluppo, come mi raccontava anche il sindaco, ma anche Pietro Conte, di coinvolgimento e di partecipazione, no? il PGTO stesso. In questo caso qua, forse siamo abituati a aver avuto questo approccio, non c'erano proprio i tempi, le modalità, oltre che essere un obiettivo anche diverso, che poi anche si scende più nel dettaglio, quindi la partecipazione probabilmente doveva essere legata già specificatamente a un luogo, a un contesto specifico per poter poi tradurre in atti progettuali, no, la partecipazione, perché la gestione della partecipazione, la traduzione della partecipazione della cittadinanza nella sua traduzione fisica di un disegno, di progetto, non è fatto semplice. Un conto è raccogliere suggestioni, idee, ragionamenti, riflessioni, altro è ben più difficile, che richiede strumenti e tempi adeguati a tradurre una presentazione. In questo caso non avevamo proprio i tempi materiali, da una parte. Dall'altro c'è stato un aneddoto che mi è stato rivelatore, forse per, magari ho io nella presentazione ai comitati di quartiere ho usato dei termini impropri e uno dei partecipanti a quella riunione mi disse: ma ancora queste cose? Ma non abbiamo già fatta così tanta di partecipazione, non sapete ancora quello che la cittadinanza pensa. E giustamente, come diceva prima la professoressa, la logica è diversa, cioè un'interazione all'interno di un percorso progettuale dove la cittadinanza può intervenire, ma dove la dinamica è diversa, perché l'obiettivo da raggiungere è altro. E in parte, come diceva anche il sindaco, oramai le informazioni ne abbiamo anche tante. L'idea è quella invece di riuscire a tradurre quell'informazione, quel vissuto, pur mantenendo aperta, no? Mantenendo comunque aperta, perché dall'altro lato, per rispondere ai quesiti che avevi fatto anche su internet, eccetera, che poi sono riuscito ad andare a vederli, richiedevano altre proprio dinamiche. E qui in questo caso è diverso, non avremmo avuto il tempo materiale per gestire quella situazione. Non avremmo, e quindi forse questa formula mi sembra la più adeguata. Infatti anche all'inizio di tutto il percorso, anche in relazione con il Politecnico, mi è stata proposta un po' da loro questa la soluzione del workshop. Io ero partito con altre ragioni, ero partito con una richiesta in generale, però poi nello sviluppo del ragionamento, della riflessione in relazione agli obiettivi, è stato il Politecnico, è stata la professoressa che mi ha proposto il workshop, che a mio avviso condensava queste aspettative. Poi loro si sono prestati a questa richiesta ulteriore di queste linee guida che ancora di più andavano a rispondere alla nostra necessità. Le criticità ci sono tutte. Il mio invito è un po' a vedere le opportunità ancora all'interno di queste forti criticità. Spero che questi 10 giorni, con l'aiuto degli studenti, con l'aiuto del Politecnico, con l'aiuto dei collaboratori della professoressa, si riesca a sviluppare almeno le opportunità riducendo le criticità. Questa è la sfida che siamo chiamati. Grazie. Perfetto, volevo semplicemente esporre, la mia non è una domanda, ma più che altro una richiesta. Da semplice cittadino, io vedo questo progetto in maniera molto, molto interessante, lo sviluppo dell'urbanistica che va verso una visione della città di traduomo. Io ho girato un po' l'Europa anni fa e ho visto che in Europa questi aspetti sono già sviluppati. Le città europee si sta abbastanza correndo da questo punto di vista. Si sta abbastanza correndo, sentivo anche ultimamente Barcellona, che sta veramente bruciando le tappe dal punto di vista della creazione di questi luoghi. Io mi metto come cittadino e dovete individuare quelle che possono essere delle zone della città, del quartiere, fruibili, cioè utilizzabili. Cercherei 3 aspetti fondamentali. Innanzitutto la tranquillità di questa zona, di questo spazio comune, dove la persona si sente protetta più che altro dalle macchine, dal mondo del traffico. Cioè dovrebbe essere una zona dove il traffico rimane relegato lontano, quindi una visione del posto esclusivamente pedonale. Quindi una tranquillità intrinseca proprio del posto. Secondo luogo, una certa, come dire, fruibilità, quindi avere determinati servizi sul posto. E non ultimo l'accessibilità, quindi avere un posto tranquillo, una zona, una piazza, una via, un ambito, un incrocio tranquillo, fruibile, è accessibile, facilmente accessibile, però ovviamente non in macchina, perché le macchine non le vorrei mai avere, in bicicletta o piedi. A questo punto avrei un posto dove poter stare tranquillamente, serenamente, anche in un contesto originale, dove ci sono delle realizzazioni architettoniche magari originali, utili o meno utili, cioè appostate o abbellimenti artistici, con dei servizi, penso alle reti wifi piuttosto che a panchine, piuttosto che a posti dove poter far girare bimbo sui tappini, butto lì, e comunque appunto accessibili. Questi tre aspetti li riterrei fondamentali per poter avere un ambito interessante che mi spinga a uscire di casa e andare lì. Grazie. Posso anch'io come cittadino esprimere il mio pensiero in questo senso. Io spero che, al di là che si possa far diventare una perla, una cittadina, questa progettazione sia aperta a quello che c'è intorno a noi. Quello che manca più in questo momento è la natura, no? Quindi spero che si abbia un occhio su questi corridoi, che ormai sono pochissimi, che sono appunto, si è cercato di creare un parco di 1.8 che purtroppo sappiamo che è quasi semi-inesistente come consistenza, quando mentre dall'altra parte abbiamo un parco dell'Angolo, in cui qui abbiamo ancora qualche bosco, no? Cioè il bosco del Chignolo, il bosco del Rio Pegorino. Cioè, cercate, secondo me, di progettare una città aperta verso questi corridoi. Perché, cioè, al di là di tutto, purtroppo è diventata una città tutta asfaltata, quello che si potrà piantare vale qualche alberello, ma quello che rimane veramente è intorno a noi. Quindi io spero che progetterete una città aperta. Sono affermazioni e richieste, quindi da sviluppare, suggerimenti. Ci sono altre domande da parte anche degli studenti, da parte di qualche consigliere comunale o da qualche professionista che vede il sale? Li abbiamo già appesantito fin troppo. Parleremo nei prossimi giorni. Per cui niente, per il momento ringrazio tutti, ringrazio la professoressa Montedoro, Paolo Ponte, il sindaco, ringrazio tutti voi. E con le grandi disponibilità